Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione che sta dalla parte dei nostri compagni di viaggio su questo pianeta, i viventi non umani o altri animali, come preferite definirli. Noi vi portiamo le voci dalla poliedrica galassia animalista, antispecista e vegan, un vasto movimento globale che sta ottenendo sempre più attenzione da parte dei media. Oggi vi porteremo in viaggio tra Israele, la Spagna, il Pakistan, il Canada, l'Italia e l'Australia. Reggetevi forte perché le notizie sono tante, non sono tutte allegre, ma qualche spiraglio di luce riusciremo a portarvelo. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Ilaria Beretta, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. E partiamo subito dalla cronaca nazionale. Il 6 luglio scorso a Fermo un giovane nigeriano di 36 anni, Emmanuel Chidi Namdi, è stato ucciso dopo aver reagito a insulti razzisti e molestie nei confronti di sua moglie, che era stata strattonata e apostrofata con frasi del tipo «scimmia africana». L'assassino si chiama Amedeo Mancini, ha 39 anni ed è titolare di una grossa azienda zootecnica a Fermo, un'azienda che, riportano i giornali, conta una cinquantina di tori. Il Mancini ha anche una forte passione per il pugilato ed è un volto noto della tifoseria ultras della locale squadra di calcio. Facciamo un salto nel passato. Il 13 luglio 2013, in un comizio a Treviglio davanti a 1500 persone, il senatore della Lega Nord Roberto Calderoli dette di orango al ministro Kienge e la giunta del Senato che affrontò il caso ritenne a maggioranza che Calderoli avesse espresso solo dei giudizi politici sull'ex ministro Cécile Kienge. Marco Travaglio diffuse il testo degli interventi della giunta e gli elettori in quel caso scoprirono che anche senatori del PD avevano sostenuto che dare di orango era in pratica una critica politica, evidenziando anche che nella satira spesso si paragonano persone ad animali senza che tali circostanze diano luogo a fattispecie criminose. La riflessione che noi vi proponiamo, che proponiamo anche a noi stessi, è quella di non fermarsi a proibire di degradare una persona paragonandola a un altro animale o punire severamente chi lo fa, magari delegando alle patrie galere la soluzione del problema, perché proibire di insultare una persona umana degradandola a ratto, a scarafaggio, a maiale, non risolverà la questione di fondo, che è quella di continuare a rafforzare un'idea di gerarchia tra viventi che al momento opportuno, la storia ce lo insegna, verrà utilizzata per massacrare il debole di turno. Per questo abbiamo chiesto ai nostri amici del blog Resistenza Animale di proporci una riflessione su questo episodio di cronaca così strettamente interconnesso con la questione animale. E la redazione del blog Resistenza Animale ha scelto un bellissimo pezzo di Femminosca titolato Orgoglio di scimmia. No, mi spiace, non ci sto alla retorica del siamo tutte persone proferita dalla maggior parte delle e degli opinionisti in seguito all'assassinio di Fermo. A chi lo immagina e fa finta di nulla, a chi non lo immagina e non sa immaginare che possa esistere un'altra risposta alla violenza insensata, alla morte procurata per odio e per ignoranza, dico chiaro e tondo, una volta ancora, che alzare l'asticella che legittima la violenza non sarà mai la soluzione. Perché agli animali si può fare tutto, e gli animali sono meno di niente, ed è per questo che Emmanuel Namdi è morto. Perché essere paragonati agli animali, che trattiamo da cose e non da individui senzienti, era per lui un'offesa che trascendeva la lampante constatazione che sì, siamo animali, e sì, siamo scimmie o i loro più vicini parenti, e che sì, una scimmia, ma anche un topo o uno scarafaggio o un bigattino goloso di carne in putrefazione vale più del fascista che lo ha ammazzato. Invece scimmia era per lui il peggior insulto, perché se c'è un linguaggio comune a oppressori e oppressi è quello che mette gli animali non umani sul più basso gradino dell'esistente. Non è appellandosi all'umanità, rinforzando il confine che ci separa dal resto del vivente, eternamente sacrificabile e sacrificato, con l'indifferenza che caratterizza l'inutile e l'inconsistente, che cesseranno eventi come questi. Fino a quando alcune vite varranno più di altre in nome di criteri arbitrari di merito, di simpatia o di somiglianza, nessuna e nessuno potrà vedersi garantita la propria non sacrificabilità. E lo affermo con convinzione e con la tristezza di chissà che proprio ora, mentre scrivo, camion carichi di animali non umani compiono il loro ultimo infernale viaggio verso il macello, altri vengono torturati e ammazzati in ogni modo, in nome della scienza, ma anche della noia, dello sport, del divertimento. E che allo stesso modo barconi carichi di migranti disperati affondano nel mare dell'indifferenza generale. Quello che ha ammazzato Emmanuel era un fascista, punto. E l'Italia è piena di fascisti, dichiarati o meno. È un paese razzista e ignorante in un mondo in decadenza che vede ciclicamente impennarsi la violenza contro i più deboli per difendere i privilegi di pochi. Del disagio sociale di questo assassino, reale o presunto, non mi importa. Quello che mi interessa, invece, è che ciò che permette alla violenza di manifestarsi è la convinzione che essa non sia intollerabile tout court. Quello che non si dice quando si afferma che la panacea di questi avvenimenti sia racchiusa nella convinzione che siamo tutte persone è che sulle non persone è considerato accettabile usare violenza. Ovvero chiunque, anche la persona all'apparenza più pacifica, ammette l'esistenza di un ambito nel quale la violenza è legittima, quella delle non persone, dei non umani. Se una cosa ci ha insegnato la storia, è che quel confine non è impermeabile, né dato una volta per tutte. È un confine poroso, ideato da chi ha il privilegio per escludere chi non deve averne neanche una briciola, e anzi, può essere sfruttato a piacimento. In nome di questa consapevolezza, scelgo di stare dalla parte dei non bianchi, dei non etero, dei non abili e dei non umani. Quel confine lo voglio abbattere una volta per tutte e rivendico con orgoglio il mio essere scimmia. Dall'Italia con un grande salto passiamo al Canada, dove scopriamo che un gruppo di monaci buddisti dell'isola del Principe Edoardo hanno comprato 270 chili di aragoste in diversi mercati e negozi in giro per l'isola, poi sono andati con una barca in mezzo al mare, hanno recitato alcune preghiere e alla fine hanno liberato le aragoste nell'oceano. Il monaco Dan ha spiegato che il proposito di questa azione è stato quello di coltivare e diffondere la compassione, non solo per le aragoste ma per tutti gli esseri viventi. Noi, ha detto il monaco, non stiamo facendo questo per convertire qualcuno a essere vegetariano o vegano. Quest'azione ha l'unico obiettivo di coltivare la compassione. Anziché aragoste avrebbero potuto esserci vermi, uccelli o qualunque altro animale. Il monaco ha anche chiarito che non è necessario fare una cerimonia o essere buddisti per praticare la compassione ed essere più gentili e buoni con gli esseri viventi che vivono attorno a noi. Bisogna sempre pensare, se i miei cari fossero in questa situazione, io che cosa farei? Free, free. So Hanno in comune un'azienda olandese specializzata nell'addestramento di cani e una organizzazione palestinese per i diritti umani? Lo scoprirete nella nostra prossima notizia e, per la precisione, in un servizio a cura di Francesca De Maria. Mai più cani da guerra. La campagna per porre fine all'uso dei cani d'assalto in Palestina ha ottenuto un grande risultato. Grazie a una campagna congiunta, guidata da organizzazioni palestinesi per i diritti umani e supportata da una petizione firmata da 3.000 sostenitori di Palestinian Animal League, l'azienda che riforniva alle forze armate israeliane di cani d'assalto ha dichiarato che non venderà più cani per questo scopo. Come riporta la stampa olandese, il proprietario di Four Winds Canine, azienda che in precedenza pubblicizzava orgogliosamente la propria responsabilità nell'esportare da più di 20 anni il 90% dei cani in uso all'esercito israeliano, ha detto: «Non abbiamo mai avuto l'intenzione di violare i diritti umani». L'azienda olandese è specializzata nell'addestramento di cani pastore belga Malinois che poi vengono venduti alle forze di polizia e agli eserciti. La dichiarazione è la risposta allo sdegno suscitato da alcuni video che hanno mostrato come i cani vengono utilizzati durante proteste e manifestazioni di cittadini palestinesi nei territori occupati dallo Stato di Israele. La vicenda risale al dicembre 2015, quando Electronic Intifada, organo di informazione indipendente che racconta la lotta della resistenza palestinese, ha portato in evidenza l'uso di cani da assalto da parte delle forze armate israeliane. Il video che ha dato il via alle proteste è stato girato a Kfar Kadum, vicino a Nablus, durante una protesta dell'intero villaggio contro l'espropriazione dei terreni agricoli attuata dai soldati in favore delle colonie israeliane. Il video mostra militari israeliani che scagliano i cani contro un ragazzo del villaggio. Il caso di Kfar Kadum è solo uno degli episodi di uso dei cani contro i manifestanti. La campagna contro l'uso dei cani d'assalto è stata principalmente guidata da Alaq, Organizzazione palestinese per i diritti umani, e PAL, la più importante organizzazione animalista palestinese, vi ha subito aderito, facendo notare che l'utilizzo dei cani in azioni militari, fra le altre cose, condiziona lo sviluppo dei bambini palestinesi, che vengono giocoforza educati ad avere paura dei cani, non solo di quelli arruolati dall'esercito israeliano, ma anche dei cani liberi che vivono nei territori occupati. Questi animali, per quanto non siano aggressivi, finiscono così per essere temuti e detestati. Alcune municipalità tengono sotto controllo la popolazione dei cani randagi catturandoli e uccidendoli, e non sono rari i casi di maltrattamenti e uccisioni attuati dai singoli cittadini. Nonostante questa situazione, PAL è riuscita a instaurare una collaborazione con diverse autorità locali, disposta a sperimentare nuovi metodi non letali di controllo dei randagi. PAL sta svolgendo un'innovativa campagna di vaccinazione, sterilizzazione e rilascio dei cani randagi. Dice Ahmad Safi, direttore esecutivo dei Palestinian Animal League: «Noi ci occupiamo sia di diritti animali che di diritti umani. I cani non sono armi per attaccare e intimidire le persone, ma sono esseri viventi che non hanno chiesto di prendere parte a un conflitto violento». La campagna di Palestinian Animal League si chiama Save a Street Dog. Per saperne di più visita il sito pal.ps, anche in italiano. Bye. sono armi e per venire usati dagli eserciti come cani da combattimento devono venire duramente addestrati. Allo stesso modo anche i tori non sono animali feroci, sono erbivori, quindi di indole molto mansueta, come sa bene il popolo hindu che infatti li ritiene sacri e come sa bene anche chi frequenta le strade dell'India. Non è quindi difficile capire che per costringere un toro a correre, a scalciare, a attaccare nelle arene durante le corride è necessario prepararlo prima con delle vere e proprie torture, il cui esito finale sarà quello spettacolo triste durante il quale un magnifico animale possente viene ridotto in uno zombie sanguinante. Stiamo parlando di corrida, naturalmente. Le corride sono entrate nella cronaca perché sabato 9 luglio scorso un torero 29enne, Victor Barrio, è morto dopo essere stato incornato da un toro in un'arena a Teruel, in Aragona, nel centro della Spagna. Si tratta del primo torero professionista morto durante una corrida dopo 31 anni. Tra l'altro una corrida che è stata trasmessa in diretta TV. Lorenzo è il nome del toro di 4 anni e 529 kg che ha ucciso Barrio colpendolo ai polmoni e recidendo l'arteria aorta. Con questo incidente si è tornati a parlare di quell'antica tradizione vigente in Spagna di sacrificare non solo il toro responsabile della morte del torero, ma anche della madre e in generale di tutta la famiglia di quell'animale. Intorno al tragico evento di sabato scorso c'è stato molto dibattito. Come sappiamo e abbiamo più volte detto, le corride di tori sono eventi sempre meno amati dagli spagnoli. Si tratta di tradizioni che hanno ancora un certo seguito, soprattutto nelle zone rurali. E c'è chi dice che la tauromachia deve essere considerata un indice di sottosviluppo e di arretratezza. Sappiamo che anche politicamente ormai ci sono diversi movimenti contro la corrida, il movimento Podemos è ampiamente critico nei confronti di questa tradizione, in Catalogna addirittura dal 2011 la corrida è stata bandita, a Valencia sono stati tagliati i fondi della Feria de Julio e iniziative analoghe sono state prese anche in molte altre città della Spagna. Spicca tra tutte la scelta di Alicante che ha sostituito i giochi taurini con una corsa in bici. Un interessante caso di riconversione. Anche a Strasburgo era stato approvato un emendamento al bilancio del 2016 che prevedeva che non si dovessero utilizzare i fondi della politica agricola comune né di qualsiasi altro finanziamento europeo per sostenere economicamente attività taurine che implichino la morte del toro. Ma forse la cosa che a noi interessa di più in questo momento è sapere che cosa veramente si nasconde dietro la corrida. Sulla piattaforma firmiamo.it, che è una versione made in Italy delle più celebri fucine di petizioni Avaz o Change.org, abbiamo trovato un testo che vi andiamo a leggere perché ci sembra veritiero e interessante. Dunque, si dice che il toro, prima di entrare nell'arena, viene tenuto al buio, viene sottoposto a droghe e purghe per indebolire le sue forze, viene percosso sulle reni con sacchi di sabbia, gli viene cosparsa trementina sulle zampe per impedirgli di star fermo, gli viene messa vaselina negli occhi per annebbiargli la vista e gli viene infilata della stoppia nelle narici e nella gola per impedirgli di respirare. Gli vengono conficcati aghi nelle carni. Quando entra nell'arena poi gli vengono conficcate dai picadores le picas che producono dolore ed emorragie, gli vengono infilati dai banderilleros le banderillas che sono degli arpioni che straziano ancora di più i muscoli costringendo l'animale ad abbassare la testa, viene poi colpito ripetutamente dalla spada che provoca sempre più gravi emorragie polmonari che finiscono per soffocare l'animale. Infatti nelle immagini spesso vediamo il toro che vomita sangue. Quando esce dall'arena poi il toro viene trascinato via, spesso ancora agonizzante, paralizzato ma cosciente, gli vengono tagliate la coda e le orecchie che vengono consegnate al torero come macabri trofei di una vittoria ingiusta, e poi il toro viene finalmente macellato, terminando così la sua terribile agonia. Io sono il toro, ma sei tu, quello seduto giù, caduto per mano di un siumanitù. Tutto si è compiuto, ero sotto tiro e mi sono scatenato come il toro di De Niro. Preso in giro dal tuo ingegno, respiro sdegno, mo con la muletta fa di legno. Già che sono un segno di terra, ti lascio a terra con un segno. Non toccare il toro quando è nero, paghi pegno. Troppi tori ingoiano le picciole, gli aggressori con tanto di pentole. La vita è riprovevole, poiché fa la gioia del colpevole. Non è solo il toro a subire inaccettabili torture durante le corride, anche i cavalli, spesso vecchi e malati e feriti con le corde vocali tagliate. Infatti non sentirete mai durante una corrida un cavallo nitrire per il terrore, ma naturalmente il cavallo è terrorizzato dal toro e i suoi occhi vengono spesso bendati. I cavalli sono anche loro vittime della corrida, a volte vengono rapidamente ricuciti dopo essere stati sventrati dalle corna dei tori e vengono poi riportati nell'arena e finiscono agonizzanti senza che nessuno si curi di loro quando sono ormai inutilizzabili. Venendo a sapere questi retroscena della corrida, si comprende perché l'82% degli spagnoli, secondo l'ultimo sondaggio, è contrario alle corride, che sono mantenute in vita solo da un migliaio di persone definite dagli animalisti spagnoli mafia taurina. Questa mafia non ha scrupoli nello sfruttare la sofferenza degli animali e la delicata psicologia dei giovani per scopi puramente economici. Per imporre alla Spagna, all'Europa e al mondo questi barbari spettacoli, la mafia taurina si impossessa dei mass media, presenta la corrida come un'arte, come un folklore, come una tradizione popolare, come un mito, come un rito, come un simbolo, ottenendo così il consenso della cultura ufficiale del governo spagnolo, che finanzia le scuole di tauromachia per giovanissimi, organizzando e incoraggiando degli spettacoli comico-taurini in cui nani torturano a morte dei vitelli con lo scopo di divertire i bambini, rendendoli così crudeli e indifferenti al sangue e alla sofferenza. Su YouTube si trovano molti filmati che confermano questa tristissima notizia. Testo di questa petizione nell'arena in festa tra musiche e colori, trafitto dalle picche, dalle bandierine, dalla spada e dal coltello, il toro immobile vive la sua lenta agonia. Accanto a lui muore il cavallo, il ventre squarciato sotto la trapunta, il finale dell'ultimo atto di una corrida spagnola che alcuni continuano a definire espressione d'arte, di cultura e di folklore. Notizia ci viene dall'Australia. L'Australia vieterà le corse dei levrieri da luglio 2017, quindi le corse di questi cani, grande passione degli spettatori sportivi e degli scommettitori australiani, saranno proibite a partire da luglio 2017, tra un anno, nello stato del New South Wales e nel territorio della capitale Canberra, dato che è stato pubblicato un rapporto, il rapporto di una speciale commissione d'inchiesta che denuncia come il settore abbia partecipato e condonato il massacro di migliaia di cani sani ogni anno e l'uso di esche vive durante sessioni clandestine di addestramento. Il rapporto conclude che il settore è incapace di riformarsi. Questo rapporto presenta una stima dei levrieri uccisi in quanto non competitivi. I numeri sono impressionanti, fino a 68.000 negli ultimi 12 anni, cioè fra il 50 e il 70% di tutti i cani allevati per le corse. La commissione fornisce anche le prove che i funzionari del settore erano consapevoli delle pratiche illegali, come per esempio l'uso ampiamente diffuso di piccoli animali vivi, porcellini, conigli, ratti o opossum. I dirigenti del settore lamentano questa punizione collettiva inflitta a migliaia di addetti e di operatori per colpa di alcune mele marce. L'ente protezione animali e le organizzazioni animaliste hanno invece elogiato la misura come passo storico per i diritti degli animali e ora esortano il pubblico ad adottare i levrieri, che sono tanti, fra 6.000 e 10.000, condannati alla disoccupazione. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? While the party was nice, the party was bumping. And everybody having a ball. A Ceneselli, in provincia di Rovigo, la società dal nome un po' porno e un po' kitsch Porcellino d'Oro doveva aprire un allevamento di 20.000 capi, ma dalle ultime indiscrezioni sembra che questo progetto si sia arenato, complice forse la crisi del mercato zootecnico. Noi, come trasmissione animalista, antispecista e vegan, non possiamo che salutare con favore il sipario che si sta abbassando su questo terribile progetto, un lager di dimensioni mastodontiche. E per festeggiare questa notizia positiva vi invitiamo all'ascolto della rubrica Il Pasto Gentile, la nostra rubrica di cucina senza crudeltà, a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni, un ottimo modo per dire basta, per dire no a ogni tipo di allevamento e macello. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Oggi si cucina senza accendere fornelli. Armatevi di semi e verdure fresche, accendete l'essiccatore e tenetevi pronti per i mini burger raw ai germogli. Gli ingredienti per 4 burger sono 50 g di semi di girasole, 50 g di anacardi, una carota, un cipollotto fresco, una zucchina, del succo di limone, 2 pomodori ciliegia e un ciuffetto di germogli. Con un frullatore tritate finemente la carota assieme al cipollotto, ai pomodori ciliegia e alla zucchina dopo averle ben lavate. A parte, riducete in polvere i semi di girasole e gli anacardi, sempre con l'ausilio di un blender. Unite le due miscele e impastate bene. Aggiungete il succo di limone e con le mani leggermente inumidite formate delle palline di circa 50 g e schiacciatele. Sistematele su un foglio di carta forno e decorate con qualche germoglio. Mettete in essiccatore per 3 ore, poi voltate i vostri burger ed essiccate ancora per altre 3 ore. Una notizia dal Pakistan: in cattività da 30 anni, un ergastolano innocente. È senza fine il calvario di Kavan, un elefante confinato in una cella angusta dello zoo di Islamabad in Pakistan, che dalla metà degli anni 80 è stato separato dal suo branco in Sri Lanka e portato in un recinto dello zoo, prima da solo, poi in compagnia di Saheli, una giovane elefantessa che però purtroppo è morta nel 2012. Da allora Kavan, questo elefante, si è dimostrato molto aggressivo verso i suoi custodi e per questo su di lui sono stati usati metodi coercitivi di ogni genere, tra cui catene, al punto che poteva muoversi a malapena, e poi bastonate. È stata importante la mobilitazione internazionale portata avanti anche sui social con la pagina Facebook Free Kavan the Elephant, e all'animale alla fine sono state tolte le catene, ma la sua situazione è solo parzialmente migliorata perché, proprio a causa della prolungata solitudine e prigionia, soffre di disturbi mentali, ha una serie di movimenti stereotipati tipici di chi non ne può più dal punto di vista psicologico, e tant'è vero che adesso c'è una nuova mobilitazione mobilitazione, 400.000 firme, una petizione online per chiedere di trasferirlo in un santuario dove possa essere aiutato sia dal punto di vista etologico che psicologico a vivere il resto della sua esistenza senza catene e non più in solitudine. Siamo in chiusura, come sempre ricordiamo le voci che hanno contribuito ai servizi di questa trasmissione, che sono quelle di Francesca De Maria, Luigia Marturano, Gabriele Palloni e naturalmente Camilla Lattanzi in conduzione. L'appuntamento con Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.